Agitando sempre l'indice elevato, con versaccio che somiglia un miagolar, quando canta Ravagliati fa così, guerrere, e tartaglia appassionati, bidilidì. Raglia va, va, baci di vicina sulla bo, bo, bo da lì va, va, mentre questo Tito schifa non lo fa. E agitando sempre l'indice elevato, con lo staccio che somiglia a miagolar, quando canta Ravagliati fa così, uè, e tartaglia appassionati, di di di. Raglia va, va, va se ne piccina sulla bo, bo, bo da lì va, va, mentre questo Tito chi fa non lo fa.